Chissà perché quando il buon Prodi, in uno di quei sussulti di buon senso che lo rendono nonostante tutto simpatico, ammonisce che l'Italia, quanto a rischio di disordini a sfondo etnico, non è poi tanto lontana dalla Francia, e che perché scoppi qualche grosso casino è solo questione di tempo, tutti gli danno del matto o del mestatore. Mentre se la stessa cosa vi dice il ministro Pisano, secondo il quale, testuale, i roghi delle banlieue francesi potranno essere un problema su cui avranno da piangere anche le periferie italiane, e allora lo subissero da applausi e l'onorevole Violante lo ringrazia per quella risposta positiva, seria e civile. Certo, la destra è la destra e dalle bassezze non si è mai astenuta. Panorama ha persino pubblicato una vignetta del simpatico Frattini in cui il poveraccio, Prodi dico, è raffigurato mentre brandisce con una mano una bandiera rossa con falce e martello e con l'altra una bottiglia incendiaria, e chissà che cosa farebbe se non venisse stoppato da un Berlusconi ammantato nel tricolore. E ammetterete che più in basso di così è difficile. Ma gli altri? E come si spiegano le prese di distanza e distinguo con cui i leader del centro-sinistra, da Fassino, da Lema, Rutelli e gli altri, hanno fatto capire che loro su quell'ammonimento avevano le riserve più ampie? Deve esserci entrata in qualche modo la volontà di non esprimere troppi dubbi sulla capacità dei vari Veltroni e Penati di gestire le aree urbane a rischio. Ma questo non basta a spiegare la soverchia con cui sono state prese per buone le parole di un ministro che nello stesso intervento alla Camera ha spiegato che a Lampedusa, a parte qualche disagio, va bene tutto, e che in materia il governo ha molto da discutere, poco da rimproverarsi e ancor meno da nascondere. Il fatto è che Prodi, da candidato, poneva un problema politico, mentre Pisano da ministro si è limitato a una serie di proposte amministrative. Ha intrattenuto gli onorevoli deputati sulla necessità di ristrutturare i CPT, di aprirne di nuove, di governare gli accessi, di rafforzare i controlli, di queste cose qui. E la sinistra adora le soluzioni amministrative. Farebbe qualsiasi cosa per gli uomini che le portano avanti. Lo si è visto con il colpo, diciamo, di genio con cui ha risolto l'annoso problema del candidato sindaco a Milano. Di fronte a un intervento tutto concretezza, tutto buona volontà operativa come quello del ministro degli interni, giovedì scorso alla Camera non saranno certamente mancati esponenti dei DS della Margherita che si rammaricavano in cuor loro del fatto che ormai non è proprio più possibile rispedire Prodi a Bruxelles e candidare al suo posto Pisano. Perché sul problema politico dell'immigrazione non è che in quell'area le idee siano proprio tanto chiare. In Italia non abbiamo le concentrazioni di stranieri che caratterizzano, tra gli altri, la Francia. Ma non abbiamo neanche i suoi servizi sociali, la sua organizzazione del territorio, neanche la sua tradizione d'accoglienza. Ci tocca in compenso una legge studiata apposta per sfruttare la forza lavoro altrui, concedendo il meno possibile in termini di integrazione, per cui c'è il ferreo collegamento tra posto di lavoro e permesso di soggiorno, le difficoltà che si oppongono ai ricongiungimenti familiari, gli screening periodici, le vessazioni e tutto il resto. Per non dire dell'ottusa ostilità a qualsiasi tentativo di auto-organizzazione che emerge per esempio da episodi come quello della scuola islamica a Milano, che tra le molte cose che il governo nasconde e dovrebbe in effetti rimproverarsi, c'è la fondamentale acquiescenza al razzismo di fondo della nostra società, sul che anche noi a sinistra dovremmo chiederci se proprio qualcosa da rimproverarci non abbiamo.